qualche giorno. Sì, in ottobre è stata la presa, sì, è così, mi ricordo che è così. Sì, è festa, dovrebbe essere, è festa. Io non posso fare un lavoraccio lì, ce l'ho buttata su all'autoradio, ce l'ho buttata su un armadio, Giulio, ho dovuto sfasciare tutta la macchina, tutto il cruscotto, te l'avevo detto, e metterci un autoradio di quelle burde proprio, che tra l'altro sente benissimo, che però fa l'autoradio, anzi non fa l'autoradio, fa il computer di bordo vero e proprio, quella che mettono loro e ti rompo le scatole con quelle scritte lì, attenzione che sto mettendo quello, attenzione che sto facendo quell'altro, mi sono scocciato veramente, l'ho tolto, adesso ho telecamera davanti, telecamera dietro, possibilità di registrazione, la radio si può collegare la radiotrasmittente, diciamo si può collegare all'autoradio e quindi sentire la voce su tutti gli altoparlanti. Insomma è un sistema integrato sul serio, ho 3 GPS, tutto un altro pianeta, non è anche da paragonare a quell'affare che ti fanno pagare un pacco di soldi, è della Sony, lo sapevi, con l'autoradio di che mettono, e costa un pacco di soldi, ma un pacco grande grande di soldi. Sì, sì, sì, infatti, lo so, costa un sacco di soldi, sì, anche la macchina costa un pacco di soldi, sempre quello, però, ma io la verità sono contento, perché mi piace, la verità, ci sono tante cose, perlomeno io le ritengo interessanti, ad esempio quando ricevo una telefonata appare il nome, appare tutto, poi se usi il navigatore straordinario, se usi la retromarcia quando è anche quando vai avanti, se sei vicino all'ostacolo la telecamera ti segnala tutto, insomma è bella, a me piace, la verità, no. L'unico problema è che è un po' difficoltosa per sedersi, perché è alta, viene male a sedersi, però una volta che sei seduto dentro ci stai benissimo, non è un problema, ma d'altronde essendo un mini SUV è chiaro che una certa altezza ce l'ha, quando la lavo, se voglio passare la pelle per asciugarla al centro della capota, no, non ci arrivo, io non è che sono molto alto, io sono alto 1,65 m, 1,67 m, siamo lì, per cui al centro della capota non ci arrivo, però per tutto il resto ho visto che è una macchina abbastanza soddisfacente, perlomeno per le mie esigenze va benissimo, Gianfranco. Sì, Giulio, sì, sono d'accordo, l'unica cosa che dà fastidio è un po' il consumo, che mi sembra un po' oltre le righe a volte, però vabbè, dipende anche dal piede, ecco. Dal piede stare attenti anche al fatto, la mia c'ha praticamente 6 marce più retromarcia, però insomma va benino, dai, già non è da buttare, solo ripeto, se ci hai appreso radio o quelle cose lì da montare, un bagno di sangue, te lo posso assicurare, devi girarti un po' tutto quanto per trovare uno spazietto per mettere una radio, non parliamo se poi devi mettere un baracchino, guai, perché è un macello proprio, non sai dove abitarlo, dove piazzarlo, e poi il cassettino è piccolissimo, non c'è stato un tubo dentro. Scusate, vai. Ho sentito forse 2 break, uno potrebbe essere Lupo Grigio, forse l'altro è Gianni, chi mando avanti prima? Proviamo Lupo Grigio, probabile che non lo sentiate voi. Sì, vai, riprendete voi. Io non sento nessuno, Ma tu li senti? Marco, che hai sentito? Ah, Marco, se vede si è assentato di nuovo. No, io non sento nel Lupo Grigio, non sento nessuno. Sento solo te e basta. Vabbè, se qualcuno vuole entrare, se non si attrezza di antenna, è inutile, siamo sempre alle solite. È inutile ripetere più volte quello che si è già detto, se uno non ha antenna purtroppo succedono questi problemi qua, la difficoltà nel farsi ascoltare. Sì, Gianfranco, no, ripeto, la macchina, io non è che abbia tutte queste grandi pretese, però una macchina che è piaciuta e l'ho presa, per cui cerco di tenerla meglio possibile, premesso che ho anche la C3 nuovissima, tra l'altro nuovissima nel senso che ha appena 42.000 km e ce l'ho 11 anni, ti puoi immaginare, tanto per darti un'idea. Ma comunque, siamo in due che guidiamo, guido io, guida mia figlia a casa, mia moglie non guida mai, quando esce mia moglie esce con me, oppure con la figlia, per cui non è quello il problema. Però, ripeto, sono due macchine abbastanza buone, anche la C3 devo dire che non mi ha dato mai il minimo fastidio, mai, in 11 anni, e se no a 40.000 km praticamente si può dire che è quasi in rodaggio ancora. Per cui no, va bene, prima quando lavoravo utilizzavo molto carro per il lavoro, per caricare i lavori che facevo, finestre, porte, mobili, oppure per comprare materiali, eccetera. Per cui diciamo che ci mancano parecchi chilometri da quel contachilometri lì, perché utilizzavo il motocarro magari anche per viaggiare da casa a falegnameria. Per cui tanti chilometri, ecco perché ho il motivo la macchina a pochi chilometri in 11 anni. E va bene, comunque adesso sono in pensione e la sto usando meno che mai, un po' per il coronavirus, un po' perché non è che esco molto frequentemente e siamo sempre allo stesso punto, Gianfra. Sì, stavo aspettando che qualcuno riprendesse, ma io non sento nessuno proprio, non ho neanche un QRM così alto. Vediamo un po', c'è qualcuno che vuole entrare sul 10 dovrebbe essere, sì, il 10, poi non ci vedo più, guarda, sto contando CPO che è qualcosa di spettacolare. Arrivata ad una certa età si incomincia a consumare anche gli occhi si consumano. Purtroppo è così, fa parte della natura delle persone e suppongo anche degli animali, non lo so a riguardo di questo. Purtroppo è così, Gianfra. Vediamo se rientra Marco. Marco, ci sei? Marco sta pranzando, non dico cenando, ma pranzando, perché lui di solito a quest'ora sta pappando. vabbè, e cosa ci vuoi fare? Non so, c'è qualcuno che vuole entrare? No, tutti silenzio assoluto, non c'è nessuno. E la gente ormai, diciamo che si è tutto sommato anche un po' staccata dalla radio, da quando hanno dato via libera alle uscite dopo il coronavirus, ecco che siamo diventati di nuovo pochissimi, poche persone in frequenza. Ma comunque, pazienza. Ecco, sì, infatti, purtroppo è così. Vabbè, io comunque la passione ci sono sempre, qua in ascolto oppure di là. E niente, quindi ci siamo finché possiamo starci. Poi sì, purtroppo la vista si rovina anche dal computer, diciamocela tutta. È veramente una sofferenza quella di dover stare attaccato mattina e sera a questo cavo del PC. E quindi poi l'età, giustamente, come ha detto, oramai dopo gli 80 anni si sa che la vista che non solo cala, e allora tutto qua. Dobbiamo sopportare. Certamente bisogna sopportare. Finché c'è vita, comunque c'è speranza, cosa vuoi che ti dica, Gianfra? La vita purtroppo è così. C'è un inizio, ma purtroppo per le persone c'è anche una fine. Si è presentato Gianni, avanti Gianni. Ehi, aggiù, ti ho detto, se sei all'inghippo non ci credi. Praticamente quell'apparato che ho piazzato in macchina che non funzionava, lo piazzo a casa e funziona. Lo piazzo in macchina e non funziona. Ma sicuri siamo che hai fatto l'impianto? Gianni, il collegamento dalla batteria, prova il collegamento direttamente dalla batteria, attento per la cosa, come si chiama? Per quella sparecchiatura che c'è nella macchina, che tu mi sembra che una volta l'hai cambiata nell'altra macchina che avevi prima, se ricordo bene, e mi avevi detto che costava un po' di soldi. Prendi l'alimentazione direttamente dalla batteria, Gianni. Giulio, non è questione di alimentazione, perché l'alimentazione la prendo la CD sigari e funziona con l'altro. Anche questa si accende, ma non praticamente non si muove la lancetta, quando tu vai a parlare non si muove. Guarda che assorbimento, quelle lì, se non danno con gli ampere vanno in protezione. Hai capito, Gianni? C'è poco amperaggio lì e quando va troppo l'assorbimento, come ti ha detto Gianfranco, va in protezione ed è una fortuna che va in protezione. Sono rientrato, Io vi lascio adesso che devo fare roba, vi ascolto. Ehi, cosa è successo? Di nuovo problemi con la presa accendi sigari? No Marco, metto l'apparato quello modificato in macchina e non funziona, cioè si accende tutto quanto, però la lancetta non sale quando premi il microfono. Metti l'altro e funziona, lo porto a casa e funziona lo stesso. Non capisco quello lì. Ma a me non è chiara sta cosa. Scusa, la presa accendi sigari nelle vecchie macchine era 10 ampere, adesso nelle nuove pare arrivi a 15 ampere. Quindi se c'è la tensione, se ci sono gli amperaggi, come fanno a funzionare? È un mistero, guarda, misteri dell'A. Non lo so, non so che dire. Gianfranco, c'è ancora, riprendi. Sì. Stavo leggendo un provvedimento che mi è arrivato dal mio capo. Anche questi le piglia la mania, articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi alla fine c'è solo quello che devi fare, no? Che è due righe, che sarebbe la proroga di rimanere appiccicato al computer. E non mi puoi dire solo che devo rimanere appiccicato al computer, posso recitarmi tutta questa tiritera di tre ore, ma veramente siamo un paese di scribacchini. No? Vabbè, comunque Gianni è sicuramente l'ha presa. Se tu guardi tutti i manuali è collegata direttamente alla batteria, sempre in ogni apparato radioelettrico, anche per questioni di disturbi soprattutto, perché se è una macchina nuova anche quello cavolo di presa è collegato alla centralina, ne regola l'afflusso e tutte queste belle cose, quindi se ci riesci ti fai passare un cavo fino alla batteria e risulti. Burocratese si chiama quella quando complicano le cose che ci potrebbero spiegare in due parole. Burocratese. Capito Gianni? A me mi sembra che è andato a Platamona, ha adocchiato qualcosina che gli è piaciuto agli occhi e adesso ci sta pensando e non risponde per quello, Marco. Fa bene. Bisogna rimanere attivi. Io dall'accendisigari, vabbè, non ho avuto mai problemi, ma poi anche con baracchini normali, cioè 10 ampere a voglia, cioè ci puoi mettere non so quanti watt puoi mettere, watt, ampere, adesso non fatemi fare il conto, però mai avuto, ma non sarà roba di centraline, rientri RF, che ne so io, cioè magari trasmette ma non gli sale la lancetta, che ne so io, non so cosa dire. E lui, per lui è al contrario, dice che accende però non sale la lancetta, ma è normale, perché non c'è amperaggio, ecco perché non sale la lancetta. Quando lui inserisce la portante ha necessità di un certo amperaggio e dunque non trasmette per quello, perché? Perché gli manca l'amperaggio. Questi impianti si fanno direttamente dalla batteria, con un cavo abbastanza robusto anche, non con un cavo sottile, no. Ci vuole un cavo anche abbastanza robusto, possibilmente da 3-4 mm, in modo che non hai difficoltà nel fatto che si può surriscaldare, il discorso è sempre quello, ma ormai è risaputo da sempre. Le macchine di prima o manco erano diverse da quelle di oggi e magari erano costruite con un altro concetto, e allora con il coso dell'accendino funzionava lo stesso, però oggi come oggi è tutto diverso, è tutta un'elettronica tutta differente. Beh, Giafra. Sì, bisogna infatti sempre stare attenti quando si mette qualcosa un po' più sopra del lamperaggio, perché va. Anche se c'è una cosa strana, perché evidentemente il suo apparecchio assorbe moltissimo, perché se ci pensi un attimo, siccome adesso non c'è più il click, quindi c'è quel compressorino almeno un ampere e mezzo, due ampere li richiede, ecco, soprattutto quando sta gonfiando le volte. E quindi si presume che la presa accendisigari arrivi almeno a un 3 ampere, a un 4 ampere, quindi evidentemente quel suo apparecchio assorbe molto di più e la manda in protezione. Soprattutto quello poi, Gianfra, quello che lui sta parlando, dell'apparecchio che sta parlando, tra l'altro è anche preparato. È preparato e dunque sicuramente ha un assorbimento ancora superiore da quando era normale, da come doveva essere normale. Per cui vedi bene che è abbastanza spiegabile il fatto che non accende lo smitter, però non parte. E certo che non parte, se non c'è amperaggio, caspita. Qualsiasi baracchino, anche se gli dai per dire, non so, 3-4 volte di voltaggio, accende lo stesso lo smitter. Ma prova a schiacciare la portante se parte. Non parte, perché non ha il voltaggio sufficiente, l'amperaggio soprattutto. È così. Vai Marco. Vabbè, io ho letto che su certe macchine la presa accendisigari supporta 15 ampere, sono un bel 15 ampere, c'è un baracchino, a meno che, anche se fosse un baracchino con 100 watt, dovrebbe funzionare, io non me lo so spiegare, boh. Comunque già, se proprio devi tenere il baracchino in macchina, fagliela questa, vado a fare l'elettrauto, questo stavetto dalla batteria, no? Non ci vuole molto, il cavo diretto dalla batteria, naturalmente sottofusibile. Vediamo se è rientrato a casa Gianni, non pervenuta. Vai Gianfra. Marco, magari forse come dici tu, a mettere un cavo sulle macchine nuove, io ne so qualcosa, per entrare dentro la macchina che è tutta sigillata, no? L'abitacolo, devi trovare il punto giusto, eccetera, fare schiaffi a trapanare senza uccidere l'airbag. Posso assicurare che è un bagno di sangue, ma veramente una cosa incredibile, perché a passare il semplice cavo, io sono riuscito a passare il cavo dalla telecamera anteriore e il cavo d'alimentazione della radio, guarda, ma guarda, se la porti all'elettrauto ti esce un tocco, perché non dico che ci sia da smontare il cruscotto, ma quasi, è proprio una cosa micidiale. Pochi lo sanno, ma su molte auto i fusibili sono praticamente nascosti. Nella mia, ad esempio, mi devi smontare tutto il cassettino, toglierlo fuori, armarti di pila, non soffrire di mal di schiena, trovare il fusibile, che è speciale perché è un microfusibile, che qua a Sassari non li trovi, forse in concessionaria ci saranno, dovuti far arrivare dalla Cina, perché sono piccolissimi, avere la santa pazienza di centrare il buco e rimettercelo. Quindi speriamo che non parta mai nessun fusibile, perché è un disastro. Nella macchina è nuova, la stavo dicendo a Giulio poco fa, mettere un apparato CB che è notoriamente anche più grande di quelli che utilizziamo noi, eccetera, è veramente una disgrazia, guarda, perché non sai dove metterlo, perché ti devi arrecchiare a bucare a destra e a sinistra senza sapere dove è dietro, e poi magari c'hai il CB sui piedi, a contatto con i piedi quasi. Insomma, ho capito che conviene comprare macchine usate un po' di almeno 10 anni fa, se non di più. Prima prima teneva il telefono ai portoggetti grandi, adesso non ce n'è, è un casotto, ma è un disastro. Tu guarda queste plance tutte belle, tutte, neanche mettere un autoradio, perché se tu ti guardi molte macchine, non sono neanche due DIN, neanche un DIN, perché se vuoi due DIN ti devi comprare una plancetta, ammesso che ci sia, che è un pezzo di plastica con gli incastri che ti fanno pagare delle cifre allucinanti, 100-150 euro, è una cosa proprio studiata a tavolino per farti spendere soldi, è un bagno di sangue, per carità. E c'è ragione, c'è nostalgia di quelle macchine, tipo la Panda, c'è presente la Panda vecchia. La Panda vecchia ha voglia di mettere radio, ci sarà tutta, anche 3-4 apparati tutti in fila. Riprendi Giulio. Ok, già sta. Intanto vedo la notizia che ci sono già 9 contagi in Sardegna, di cui 5 a Cagliari, sono 5 a Cagliari, poi ce n'è uno a Sassari, uno a Nuoro, e poi gli altri sono nel sud Sardegna, sì, per cui ci puoi immaginare, in tutto 9 contagi ci sono. Caspita, insomma, di male in peggio stiamo sempre andando, avevamo la città, cioè la Sardegna, praticamente a zero, e adesso da quando sono venuti i turisti e soprattutto gli migranti siamo di nuovo da capo con i contagi. Boh, non è possibile continuare in questo stato qua. Vai Marco. Ma non è solo per i turisti, basta andare sabato notte e passare in via Roma, li vedi tutti ammassati sui tavolini, ragazzi molto giovani, ragazzi e ragazze, altro che un metro, proprio attaccati, incollati l'uno all'altro, baci, abbracci, tutto pieno, una fiumana umana, capito? Non... Dice, tanto a noi non prende il virus, ai giovani non gli fa nulla, si vede Gianigico, però poi contagiano i genitori, i nonni, non gli frega niente. Non ne frega niente a nessuno. Forse 2 mesi non sono bastati di reclusione, ne vogliono altri 2 o altri 4. Va bene. Poi volevo chiedere una cosa, ma non me la ricordo. Va bene. Gianni si è rientrato. Gianni sta ciuppandomi. Gianni sta pensando al capo della batteria. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. E vi ringrazio per la chiacchierata che anche stasera ci abbiamo fatto, abbastanza lunghetta, direi dalle 5, dalle 4 e mezzo che sono al baracchino, ci sentiamo. Grazie Gianfranco per la chiacchierata, avremo modo di risentirci. Ciao Marco, salutoni anche a te e ringraziamenti altrettanti per la chiacchierata. Alle prossime, io ascolto il pinolino e dopo il che chiudo, vai. Avanti Gianfra. Ok Giulio, allora alle prossime, buona serata. Buona cena. Alle prossime. Avanti Marco. Ciao Giulio, buona serata, buon tutto e a risentirci fra altri 3 mesi, dai. quando capiterà. Quindi, vediamo se c'è Nicola all'ascolto. Nicola? Ma sentito lei, questo sta cercando la divisione. Quale divisione? Sì, Nicola, Santiago 8 è un po' basso. Dice, non so se tu sia a casa però, interrogativo. Sì, Santiago 8 abbondante. Gianfranco non credo che ti copi. Gianfranco, copi Nicola? No, io sentivo uno che stava parlando, sono abbastanza chiaro. Ma non era Nicola di certo, era stava parlando di divisione, non so, forse qualcuno da qualche altra parte. Ciao Nicola, scusa se rompo la fretta. Sei calato a 9 Gianfra, di segnale. Niente, devo cambiare radio. Ho visto, come primi scende all'istante il segnale, proprio. Cambia radio, dai, vediamo se l'hai già fatto. Vai Nicola. non so che giro faccia, cioè la presa accendisigari, io non so se arrivi diretta alla batteria o faccia giri strani per centraline, però conta una cosa, cioè quando tu metti anche un aspirapolvere da auto, presumo che assorba abbastanza, un compressore da auto, quello per gonfiare le gomme, quindi come può essere che un misero baracchino da 4 watt mandi in crisi la... comunque glielo fa solo con un baracchino in particolare. Bisognerebbe chiedere a Gianni quanto assorbe, perché lui a casa ha l'alimentatore con l'amperometro, sapere quante ampere assorbe, a meno che non sia qualche rientro DF, non lo so, costa centraline è tutto macellumi. Vediamo se Gianfranco ha rimediato. Sto provando l'antenna d'emergenza, perché l'altra mi ha lasciato la cosa. Mi ascolti, sì? Sì, credo che sia intorno a 9 più 15. Sì, ho visto che è ricalato di botto a 9, come premevi all'istante scendeva a 9, è il segnale. Sì, stiamo anche di sapere da cosa è. Presumo che sia un barilotto che mi fa rompere le scatole. Periodicamente si sfasciano. Ok, salutami comunque a Nicola, io purtroppo non lo sento. Adesso esco un attimino fuori, col martello vedo una martellata, vediamo se risalpisce questo barilotto. Insomma, vecchia maniera, vai, a martellate. Eia. Gianfra, manco mi ricordo cosa stavamo dicendo lì. No, io ho fatto la domanda, ma che giro fa la presa accendisigari? Cioè per arrivare lì, nell'abitacolo, arriva diretta la batteria o passa per centraline l'onfia o roba del genere? Tutto sotto centraline varie, ce n'è. Se vedi capi ti metti le mani in testa, sono finissimi. Uno dice come fa a passare il corrente in quegli affari. Però è tutto supervisionato dalle centraline di norma. Ormai è tutto così. Un attimino esco fuori con martella. Eia, martella, dai, vediamo se ci riprende. Capito Nico, centraline contro centraline, praticamente le macchine moderne sono cablate tipo la stazione spaziale. Senza scherzimi, per esempio quella che non è mia, è quella che è di mamma, praticamente c'ha 20 anni, però... c'è la presa accendisigari, con i baracchini problemi non ne ho, comunque ho anche il cavo dalla batteria, sottofusibile, tutto a posto, ma io ho sentito addirittura, non so se fossero CB o radioamatori, che come andavano a trasmettere con apparecchi, presumo, magari amatoriali con potenze maggiori, tipo faceva interferenza con qualche centralina e si incasinava la macchina, con effetti che possono essere i più vari. Adesso non so cosa succedesse, però troppa elettronica, Nico, troppa elettronica. Poi quando partono queste centraline è a centinaia di euro a botta, capito? Non le riparano, praticamente che sia una fesseria, un diodo, una resistenza, un condensatore, no, cambiano tutta la... hanno interesse a farlo, a cambiarla e a botte di centinaia di euro. Aspetta già. Gianni, aspetta che la voce mi sta mancando. Gianni, registrata, adesso ti mando avanti. Sì, l'abrogazione riguardava comunque gli apparecchi CB, cioè la dichiarazione di utilizzo è il bollettino, punto, non parla di altro, non parla di potenze, perché per il PMR per esempio ha 500 mW RP, pure fasulli sono, capite? In realtà sono 200 mW di RF, se vogliamo essere pignoli. Vai Gianni, prova, cosa stai tirando l'antenna? Eia, si è basso il radio adesso, vai. Funziona. Hai dei bellissimi picchi positivi, funziona. Mi diceva Gianfranco che lì praticamente la presa accendisigari non va quasi diretta alla batteria, dice che passa per centraline, contro centraline, quindi sta funzionando l'apparecchio, sento anche l'eco, vieni avanti dai. Ma quello è un problema che mi mettevo anch'io, però scusa. Allora, i cavi dal motore all'abitacolo, come entrano? C'è un fascio di cavi che ha un'apertura con un gommino a tenuta d'acqua E l'elettrauto ha preso questa specie di ago, di cruna, una guida, no? Ci ha passato l'estremità del capo, l'ha infilata lì, dove passano gli altri cavi praticamente. E lì, scusa, non è che per forza c'è il passaggio di cavi che va all'abitacolo, no? È ovvio. Ma erano macchine più semplici, anche, già lo sai, la marca era la stessa, erano molto più semplici. Adesso è un incubo, ha detto Gianfranco. È tutto cablato, che è una cosa, da fuori non li vedi, ma è cablata tipo stazione spaziale, capito? E qui infatti, Gianni, mi raccomando, quella, se proprio devi mettere il cavo diretto alla batteria, fallo fare dall'elettrauto, che lui sa dove toccare, dove far passare i cavi, a costo di agire da sotto. Forse bisogna mettere la macchina sul ponte e si riesce a accedere al passaggio cavi da sotto, non lo so. Comunque, vedi che col filo volante funziona. Segnale 9+10. Aspetta Gianni, che c'è anche Nicola. Lo rilancio e poi vediamo se è rientrato Gianfranco. Vai Nicola. Ehi, comunque va bene Gianni, funziona, dai. Ma cioè, avendo la batteria del veicolo, sì, si può fare, sono cose magari fattibili, però peccato, ma comunque sì, da vedere quella macchina, vorrei vedere il vano motore. Purtroppo queste macchine nuove non vedi nulla, non riesci a... Io mi ricordo nella 1, bello, le candele erano di fronte, le svitavi, le pulivi. Adesso sembra una lapide, tu apri il cofano motore, una lapide, non vedi nulla, non puoi toccare nulla, non puoi pulirti le candele, è un incubo. Gianfranco, sei rientrato? Attenzione Gianfranco, niente, non è rientrato. Ancora no, sta martellando il barilotto che gli sta dando problemi. No, più che altro perché lo spennano e poi se chiede una modifica all'impianto elettrico magari vanno a dire che se lo fanno ti invalidano la garanzia, sarebbero capaci, cioè anche se fatto da loro loro non garantirebbero più. Ehi, per carità, è tutto in funzione di... vabbè, vediamo, dai, in un modo o nell'altro risolverà. Ah, comunque quella cosa gliela fa solo con un baracchino, con l'altro non glielo fa, con questo baracchino in particolare glielo fa. Boh. Sì, esatto. Sì, non so se abbia il tester, ma chi è che non ha un tester? Comunque lui a casa c'è anche alimentatori con strumentazione completa, quindi può arrivare alla... Però chissà perché, magari l'RF che si azzuffa con la radiofrequenza o le centraline. Gianfranco, ci sei? Niente, Gianni, ci sei? Hai finito le prove? Tutti morti. Ah, no, io ci sono, però se deve essere strappato il PL sulla grammata. Oh, ma per il vento, Gianfranco. Ieri la sbattulata era qualcosa di spettacolare, veramente. Sicuramente l'antenna non c'ha niente, ma il PL, siccome il cavo scende, non scende dritto, ma fa da tirante anche. Si deve essere sganciato qualche cosa e ha creato qualche problema sul PL. Questi PL sono, guarda, una disperazione, di qua c'ho la fabbrica, ma non sai quanti ne ho da riciclare. Perché si oscillano, creano 3.000 problemi, nonostante siano tutti nuove connessioni, eccetera. Ma è un disastro, è proprio una cosa terribile. Il cacchio, però il cavo RF che fa la tirante. Vabbè, niente di grave comunque, basta rifare il PL, solo che dovrei o tirarla giù o salire con scale, non so come sia l'impianto. Insomma, sempre scocciature lì. Ok, no, questa antenna, vabbè, vedo che col vento è volato di tutto qua l'altra notte, ma questa antenna non si rompe mai, adesso pindaccio, ma quando si rompe non ne metto più comunque, e buon viaggio. Ma sono la tua sega adesso, Marco lì. Vieni Manuè, vieni, tagliane tutto, così almeno non entro più. Buonasera a tutti comunque. Ehi, ciao Manuel, c'è Gianfranco, Gianni stava facendo prove in macchina, e poi c'è col portatile che non so se arrivi da te, c'è Nicola che è in zona mia. Nicola, prova a parlare per Manuele. Ehi, ciao Nicola, mi hai sentito, dai, Manuel, che ti cordializzo. Sono Anima Delta, a te, Anima Delta, vai Marcoli. Ehi, mi, Doppio Roma ha fatto una prova, hai visto? Allora, l'apparecchio buono, diciamo, all'accendisigari non c'era modo di farla funzionare, ha passato un cavo volante dalla batteria a dentro l'abitacolo, facendolo passare esternamente, un cavo volante, e lì funziona benissimo. E quindi Gianfranco diceva che ci sono roba di centraline, tutta roba delicata, che rompe le scatole, e poi è sensibile all'RF anche. E già infatti dicevo, qualche radiatore si è lamentato che con potenze anche maggiori dalla macchina, certe volte sono andate in tilt centraline, sensori, ne hai mai sentito parlare Gianfra, vai? Ho voglia, cattiva schermatura, tu figurati che ho prestato una della mia radio, che parlo, sono anche super, sono professionale diciamo, ma dico, è andata così, no? E l'ho fatta impazzire, adesso ha acceso le luci, il motore non partiva, le frecce, insomma è successo un casino. Probabilmente la centralina era mal schermata e quindi ne ha combinato di tutto di più. Io adesso sto trasmettendo col dipolo, sento Nicola bassissimo purtroppo, e quindi adesso mi assento e prendo l'analizzatore, vado sotto il traccio a vedere cosa è successo. È un lavoraccio, ci può dover che non partire ad oggi perché il tubo è altissimo e pesa molto, quindi prima di tirare laggiù devo interrogare l'antenna se sta andando bene o male. Quindi vi saluto e mi dedico prima che faccia buio a vedere un po' cosa sta succedendo. Ci sentiamo Marco, buona serata anche a tutti gli altri. Sono qua, però sono in ascolto e sto lavorando su antenna. Leia, ciao Gianfranco, dai, ci sentiamo, ho capito che è un lavoraccio, una seccatura, mamma mia. Ok, dai. Comunque anche questa arrivi bene, 9.10, diciamo tra 9.10 e 9.15, e quindi non c'è problema, per Sassari la copertura ce l'hai garantita. Ok, io rilancio Emanuele e vado in bagno perché c'ho la vescica che sembra una zampogna, devo scappare, arrivo subito, vai Emanuele. Ciao Gianfranco, buon quarantino a tutto, dai. Ce la riascoltiamo tutta le migliori. Che c'era una volta, ok, vai pure Marco lì. Mi sembra che c'era quello di Cappuccini, ci sei ancora? Ok, dai, allora buona carica, buon tutto anche a te, dai. A risentirci a presto. Tutti spariti? State tutti a mangiare, oh Marco lì. Anche Nicola ha chiuso? Sì, chiuso un cazzo. Allora Marco, tutto a posto? Tutto a posto, niente in ordine, mamma mia. C'è una vescica che sembra un boccione da 2 litri. Adesso sto meglio. Che ti devo dire? Sto rimanendo un po' troppo a casa, non ho voglia di uscire, di fare, capito? Ne ho già le scatole piene dell'estate, come sempre dico, ogni volta che entro. Lo soffro troppo il caldo io, purtroppo, poi con questa cosa ormonale, no? Ti scompensi che devo correggere con farmaci e un macello, ti viene un caldo in faccia. Lo sai che una sera stavo andando a fuoco, non mi sembrava normale sta storia. No, ci credo che anche io non lo so molto. Io lo stesso non sto uscendo neanche per questo caldo qua, figurati. Aspetta un attimo, Marco lì mi sta suonando il telefono. E io fai pure. Vabbè, allora vado a bermi il bicchierino, dai, per digerire. A dopo. Ora, sì. Attenzione, Doppio Room, sei all'ascolto? contatti di